Pan per focaccia. Per Faith decidere equivaleva ad agire. Non perse tempo per cominciare a mettere in pratica la sua idea. Il giorno seguente, appena tornata da scuola, uscì subito di nuovo diretta verso Glen. Mentre passava davanti all'ufficio postale, Walter Blythe si unì a lei. Sto andando dalla signora Elliot per una commissione che mi ha affidato mia madre, disse. Tu dove vai, Faith? Oh, devo sbrigare delle faccende della chiesa, rispose lei altezzosa. Non aggiunse altre informazioni e Walter si sentì snobbato. Camminarono in silenzio per un po'. Era una serata calda e ventosa, l'aria era dolce e profumata di resina. Oltre le dune di sabbia il mare era grigio, calmo e bellissimo. Il torrente di Glen trasportava un carico di foglie dorate e scarlatte, simili a scialuppe delle fate. Nel campo di grano saraceno di James Rees, dalle splendide sfumature rosse e marroni, era in corso un'assemblea di corvi intenti a prendere importanti decisioni riguardanti le sorti del loro regno. Faith interruppe senza riguardo quel momento solenne, arrampicandosi sulla recinzione e lanciando contro gli uccelli un pezzo di steccato rotto. L'aria si riempì all'istante di uno sfarfallio di ali nere e di un gracchiare indignato. Perché l'hai fatto? La rimproverò Walter. Si stavano divertendo così tanto. Oh, io detesto i corvi, disse Faith con disinvoltura. Sono così neri e infidi e di sicuro sono ipocriti e rubano le uova dai nidi degli uccellini, sai? Ne ho visto uno farlo la scorsa primavera. Walter, perché sei così pallido oggi? Hai avuto di nuovo mal di denti? Walter rabbrividì. Sì. Fortissimo, non ho chiuso occhio, ho camminato avanti e indietro per tutta la notte, immaginando di essere uno dei primi martiri cristiani torturato per ordine di Nerone. Per un po' mi ha aiutato, poi il dolore si è fatto così forte che non sono più riuscita a immaginare niente. Hai pianto? Chiese Faith angosciata. No, però mi sono sdraiato per terra a gemere, ammise Walter. Allora sono arrivate le mie sorelle e Nan mi ha messo sul dente del pepe di Cayenne, però ha solo peggiorato le cose. Dee invece mi ha detto di tenere in bocca dell'acqua fredda, ma io non ci riuscivo e allora hanno chiamato Susan. Susan ha detto che doveva servirmi di lezione per essere rimasto in soffitta al freddo a scrivere stupide poesie. Poi però ha acceso il fuoco e mi ha preparato una borsa dell'acqua calda che ha fatto passare il mal di denti. Non appena mi sono sentito meglio, ho detto a Susan che le mie poesie non sono stupide e che lei non sapeva giudicarle. E lei ha detto che no, per fortuna non lo sapeva, perché non sapeva proprio niente di poesie. A parte il fatto che erano per la maggior parte un mucchio di bugie. Ma vedi, Faith, non è così. Anzi, è proprio una delle ragioni per cui mi piace scrivere poesie. Puoi dire un sacco di cose che in versi sono vere, mentre in prosa non lo sarebbero. L'ho spiegato a Susan, ma lei ha detto di smetterla di chiacchierare e andare a dormire prima che l'acqua si raffreddasse, altrimenti mi avrebbe lasciato scoprire se la poesia era in grado di curare il mal di denti e sperava proprio che avrei imparato la lezione. Ma perché non vai dal dentista a Lowbridge e ti fai togliere quel dente? Walter rabbrividì di nuovo. Volevano che ci andassi, ma non ci riesco. Mi farebbe malissimo. E tu? Hai paura di un po' di dolore? Chiese Faith, sprezzante. Walter arrossì. Sarebbe un sacco di dolore. Odio farmi male. Papà ha detto che non avrebbe insistito per farmi andare. Avrebbe aspettato che decidessi da solo. Il dolore durerà comunque meno del mal di denti. Ragionò Faith. Ti è già venuto 5 volte. Se vai a fartelo togliere non avrai più nottatacce. Una volta a me l'hanno tolto un dente. Ho urlato, ma in un attimo era tutto finito, a parte il sanguinamento. Oh, il sangue è la cosa peggiore di tutte, esclamò Walter. Quando James si è tagliato il piede l'estate scorsa mi stavo sentendo male. Susan ha detto che sembrava che stessi per svenire io, invece di lui. Ma non sopportavo nemmeno l'idea che James si fosse fatto male. C'è sempre qualcuno che si fa male, Faith, ed è terribile. Non ce la faccio. Non ce la faccio proprio a vederlo. Mi fa venire voglia di scappare via, via, lontano, finché non riesco più a sentire e vedere. Oh, non ha senso fare una scenata perché qualcuno si è fatto male, disse Faith, scuotendo i riccioli. Certo, se si tratta di te e ti sei fatto malissimo, devi urlare. E il sangue in effetti è un problema, e neanche a me piace vedere qualcun altro farsi male, però non mi viene voglia di scappare, ma di andare ad aiutarlo. Un sacco di volte tuo padre deve fare male alla gente per aiutarla, cosa farebbero se invece scappasse via? Non ho detto che scapperei, ho detto che mi viene voglia di farlo, è diverso. Anche io voglio aiutare le persone, però mi piacerebbe tanto se a questo mondo non ci fossero cose brutte e terribili. Vorrei che tutto fosse bello e piacevole. Beh, non ha senso pensare a quello che non c'è, disse Faith. Dopotutto, essere vivi è uno spasso. Se fossi morto non avresti il mal di denti, ma non preferisci comunque essere vivo? Io sì, 100.000 volte. Oh, guarda, c'è Dan Reese che è sceso al porto a pescare. Io lo odio, Dan Reese, disse Walter. Anche io, tutte le ragazze lo odiano. Adesso gli passo davanti e faccio finta di non vederlo. Guarda. Faith camminò quindi davanti a Dan con il mento in fuori e un'espressione sprezzante che lo ferì nel profondo. Lui si voltò e le gridò dietro: La ragazza dei maiali! Ehi, c'è la ragazza dei maiali! Ciao, ragazza dei maiali! In un crescendo di insulti. Faith continuò a camminare, apparentemente imperturbabile, ma le sue labbra presero a tremare lievemente per l'oltraggio subito. Sapeva di non poter competere con Dan Reese in materia di insulti e desiderò che con lei ci fosse Jem Blythe invece di Walter. Se Dan Reese avesse osato chiamarla ragazza dei maiali in sua presenza, Jem gli avrebbe fatto mangiare la polvere. Faith, tuttavia, non si aspettava che Walter facesse niente del genere, né ce l'aveva con lui perché non reagiva. Sapeva che Walter non faceva botte con gli altri ragazzi. Non lo faceva neanche Charlie Clow, che viveva lungo la strada verso nord. E la cosa strana era che lei disprezzava Charlie e lo considerava un codardo, mentre non le era mai passato per la testa di pensare la stessa cosa di Walter. Ai suoi occhi, lui sembrava venire da un altro mondo dove c'erano altre regole. Sarebbe stato come aspettarsi che un angioletto dagli occhi stellati si mettesse a picchiare quel brutto lentiginoso di Dan Reese. Non poteva certo prendersela con l'angelo e non se la prese con Walter Blythe. Desiderò però che con lei ci fosse robusto Jem oppure Jerry e l'insulto di Dan continuò a bruciarle nell'animo. Walter non era più pallido, si era fatto tutto rosso in viso. E i suoi bellissimi occhi erano velati di rabbia e vergogna. Sapeva che avrebbe dovuto vendicare Faith. Jem sarebbe partito subito alla carica e avrebbe fatto rimangiare a Dan quello che aveva detto. Richie Warren l'avrebbe sommerso di insulti molto peggiori di quelli che Dan aveva rivolto a Faith, ma Walter non era capace di insultare. Sapeva che avrebbe avuto la peggio, non sarebbe mai stato in grado di concepire o di pronunciare gli insulti audaci e volgari che Dan Reese padroneggiava alla perfezione. Quanto a fare a botte, Walter non era proprio capace, detestava l'idea. Era brutale e doloroso, ma soprattutto era orribile. Non aveva mai capito l'esultanza di Jem dopo una rissa. Però gli sarebbe piaciuto essere in grado di picchiare Dan Reese. Si vergognava tantissimo perché Faith Meredith era stata insultata in sua presenza e lui non aveva fatto nulla per punire il colpevole. Lei non gli aveva più rivolto la parola. Da quando Dan l'aveva chiamata ragazza dei maiali. E lui si era sentito sollevato quando si erano salutati. Anche Faith lo era, ma per tutt'altro motivo. Preferiva stare da sola perché tutto a un tratto era nervosa per ciò che stava andando a fare. L'impeto iniziale si era placato, soprattutto dopo che Dan aveva ferito il suo amor proprio. Doveva andare fino in fondo, ma non aveva più l'entusiasmo di prima a sostenerla. Doveva andare da Norman Douglas e chiedergli di tornare in chiesa, solo che cominciava ad avere qualche timore. Ciò che gli era parso semplice e facile a Glenn adesso sembrava una cosa molto diversa. Aveva sentito tante voci su Norman Douglas e sapeva che persino i ragazzi grandi della scuola avevano paura di lui. E se le avesse detto qualcosa di cattivo? Aveva sentito dire che gli piaceva farlo. Faith non sopportava essere insultata, era un dolore ben peggiore di quello fisico, ma sarebbe comunque andata fino in fondo. Faith Meredith era così, non poteva permettere che suo padre lasciasse Glenn. Alla fine del lungo viale, Faith arrivò alla casa, un edificio grande e all'antica, con una fila di pioppi neri che sembravano soldati in marcia. Norman Douglas era seduto sulla veranda posteriore a leggere il giornale, con accanto il suo cane. Alle sue spalle, in cucina, la governante, la signora Wilson, stava preparando la cena. Si udiva un tintinnio di stoviglie piuttosto irritato perché Norman e la signora Wilson avevano appena litigato ed erano entrambi di malumore. Perciò, quando Faith mise piede in veranda e Norman Douglas abbassò il giornale, lei si ritrovò a fissare gli occhi collerici di un uomo furioso. A suo modo, Norman Douglas era un bell'uomo. Aveva una lunga barba rossa che gli scendeva sul petto ampio e sulla testa imponente una chioma altrettanto rossa che non si era brizzolata negli anni. La fronte alta e bianca non aveva nemmeno una ruga e nei suoi occhi azzurri brillava ancora il fuoco della sua tempestosa gioventù. Sapeva essere amabile quando voleva, ma allo stesso modo sapeva essere orribile. E la povera Faith, così ansiosa di risolvere la situazione della parrocchia, lo aveva colto in uno dei suoi momenti terribili. Lui non sapeva chi fosse e le lanciò un'occhiataccia. A Norman Douglas piacevano le ragazzine vivaci, energiche, allegre, ma in quel momento Faith era pallidissima ed era una di quelle ragazze in cui il colorito faceva tanto. Senza il rossore sulle guance aveva un'aria sottomessa, insignificante, sembrava intimorita e dispiaciuta. E questo solleticò l'animo da bullo di Norman Douglas. Chi diavolo sei? E cosa ci fai qui? Chiese con il suo vocione tonante un'occhiata severa. E per una volta Faith non seppe cosa dire. Non immaginava che Norman Douglas fosse così, era paralizzata dal terrore. Lui se ne accorse e questo peggiorò ulteriormente la situazione. Ma che ti prende? Tuonò. Hai l'aria di chi vuole dire qualcosa, ma ha troppa paura per farlo. Che problema hai? Accidenti, parla, sei capace? No, Faith in quel momento non ne era capace. Le parole non volevano saperne di uscire, ma le sue labbra presero a tremare. Oh, santo cielo, non piangere! Esclamò Norman. Non sopporto i piagnistei. Se hai qualcosa da dire, dilla e facciamola finita. Santo cielo, sei rimbambita o cosa? Non guardarmi in quel modo. Sono solo un uomo, sai, non ho mica la coda. E tu? Tu chi diavolo sei? La voce di Norman forse si sentiva persino dalla baia. Il tramestio in cucina cessò e la signora Wilson aprì occhi e orecchie. Norman posò le sue grandi mani abbronzate sulle ginocchia, si chinò in avanti e fissò il viso pallido e contrito di Faith. Pareva incombere su di lei come il gigante malvagio di una fiaba, pronto a divorarla in un sol boccone. Io sono Faith Meredith, disse con un fil di voce. Meredith, eh? Sei una delle figlie del pastore? Ho sentito parlare di voi. Oh sì, ve ne andate in giro in groppa ai maiali e non rispettate il riposo domenicale, e non male. Ma cosa ci fai qui, eh? Che vuoi da questo vecchio pagano? Io non chiedo favori al parroco e non gliene faccio, perciò dimmi che vuoi. Faith avrebbe voluto essere a mille miglia di distanza. Balbettò quel che aveva da dire, chiaro e semplice. Sono venuta a chiederle di tornare in chiesa e di pagare lo stipendio al pastore. Norman la fissò per un istante, poi esplose di nuovo. Piccola impertinente! Chi ti ha costretta a venire qui? Chi? Nessuno, disse la povera Faith. È una bugia, non mentirmi. Chi ti ha mandata? Non è stato tuo padre? Quello ha la spina dorsale di una pulce, ma non ti avrebbe mai mandata a fare qualcosa al posto suo. Immagino sia stata qualcuna di quelle vecchie rimbambite di Glenn, vero? Eh? No, sono venuta per conto mio. Beh, mi prendi per pazzo? Gridò Norman. No, pensavo che fosse un gentiluomo, disse Faith con voce flebile e di certo senza alcuna intenzione di essere sarcastica. Norman balzò in piedi. Beh, fatti gli affari tuoi. Non voglio sentire più neanche una parola da te. Se non fossi una bambina, ti insegnerei io a non mettere il naso dove non ti compete. Quando vorrò vedere un parroco o un dottorino, li manderò a chiamare. Ma fino ad allora non voglio avere niente a che fare con loro. Hai capito? E adesso vattene, fantasmino! Faith se ne andò. Scese i gradini, incespicando, attraversò il cortile e imboccò il vialetto. Giunta circa a metà, lo stordimento causato dalla paura passò. E fu sostituito da un primo accenno di rabbia, e quando arrivò alla fine del vialetto, Faith era furiosa come non mai. Gli insulti di Norman Douglas le bruciavano nel profondo dell'anima come una fiamma. Vattene? Oh, non lei! Aveva proprio voglia di tornare indietro a dire a quel vecchio orco cosa pensava davvero di lui. Gliel'avrebbe fatta vedere. Oh sì, gliel'avrebbe fatta vedere, e come? Fantasmino? A chi? Si voltò. Senza un briciolo di esitazione tornò indietro. La veranda era vuota e la porta della cucina chiusa. Faith l'aprì senza bussare ed entrò. Norman Douglas si era appena seduto a tavola per cenare, ancora con il giornale davanti. Faith attraversò decisa tutta la stanza, glielo strappò di mano, lo buttò a terra e lo calpestò. Poi Affrontò Norman con gli occhi ardenti e le guance rosse. Era una tale furia così giovane e bella che Norman Douglas quasi non la riconobbe. «Perché sei tornata?» ringhiò lui più sbalordito che arrabbiato. Lei fissò senza timore, con lo sguardo furioso che in pochi riuscivano a sostenere. «Sono tornata per dirle cosa penso di lei», disse Faith in tono chiaro e squillante. «Non mi fa paura. Lei è un uomo maleducato, ingiusto, tirannico e antipatico. Susan dice che andrà sicuramente all'inferno e io ero dispiaciuta per lei, ma adesso non lo sono più. Sua moglie non ha mai avuto un cappello nuovo in 10 anni, non mi stupisce che sia morta. E dopo oggi le farò le boccacce tutte le volte che la vedo. Ogni volta che mi vedrà alle sue spalle saprà cosa sta succedendo. Papà ha un libro dove c'è una figura del diavolo e quando tornerò a casa ci scriverò sotto il suo nome, ha capito? Lei è un vecchio vampiro e spero proprio che le venga la scabbia». Faith non aveva idea di cosa fosse un vampiro e tantomeno di cosa fosse la scabbia, ma aveva sentito Susan usare quelle espressioni e dal suo tono aveva dedotto che erano entrambe delle cose riprovevoli. Norman Douglas conosceva quantomeno il significato della seconda. Aveva assistito in silenzio alla sfuriata di Faith e quando lei si fermò per riprendere fiato, battendo il piede a terra, scoppiò in una sonora risata. Poi si batté la mano sul ginocchio ed esclamò: «Alla fine ce l'hai il fegato, dopo tutto! Mi piace! Vieni qui, siediti!» «No!» La fiamma negli occhi di Faith si fece ancora più ardente di passione. Pensava che lui la stesse prendendo in giro o trattando con condiscendenza. Le sarebbe piaciuto far esplodere nuovamente la sua rabbia, ma optò invece per una risposta tagliente. «Non ho intenzione di sedermi qui, me ne vado a casa. Ma sono felice di essere tornata e di averle detto cosa penso di lei». Anche io, ridacchiò lui. «Mi piaci, sei stata brava, anzi spettacolare, tutta rossa e furiosa, e io che ti ho chiamata fantasmino. Non lo sei affatto, proprio no. Siediti, se ti fossi presentata subito così, ragazzina. Allora, vorresti scrivere il mio nome sotto la figura del diavolo, eh? Ma quello lì è tutto nero. Io invece sono rosso, non vado bene, no? E speri che mi venga la scabbia? Il Signore ti benedica, ragazzina. Quella l'ho avuta da ragazzo, non me l'augurare di nuovo. Su, siediti, ci beviamo una bella tazza di cortesia. No, grazie, disse Faith in tono superbo. Oh, sì, invece, vieni avanti, ti porgo le mie scuse, ragazzina. Scusami, mi sono reso ridicolo e mi dispiace. Non chiedere di più a un uomo, perdona e dimentica. E stringiamoci la mano, ragazzina, stringiamoci la mano. Ah no? Non vuoi? Ma devi. Senti un po', ragazzina, se mi stringi la mano e se ti siedi a mangiare con me, tornerò a pagare alla parrocchia la stessa cifra di una volta. Andrò in chiesa ogni prima domenica del mese e farò restare chi ti ha lecca bocca aperta. Sono l'unico del clan che può farlo. Affare fatto, ragazzina? Sembrava proprio un bell'affare. Faith strinse la mano dell'orco e si sedette alla sua tavola. La sua furia si era placata. Le sfuriate di Faith non duravano mai a lungo, ma l'eccitazione le illuminava ancora gli occhi e le arrossava le guance. Norman Douglas la guardò con ammirazione. «Tira fuori un po' delle tue conserve migliori, Wilson!» ordinò. «E smettila di tenermi il broncio, donna, smettila! Abbiamo litigato, e allora? Un bel litigio rende l'aria più limpida e frizzante. Dopo però non voglio foschia. Né pioggia, niente di tutto questo, donna. Non lo sopporto. Con me le donne possono infuriarsi, ma non piangere. Ecco qui, ragazza, un po' di stufato di carne e patate. Comincia con questo. Wilson lo chiama con un nome frivolo, io invece lo chiamo sbobba. Tutto il cibo che non riesco a identificare per me è sbobba. Le bevande che non conosco invece le chiamo brodaglia. Il tè che fa Wilson, per esempio, è una brodaglia. Sono sicuro che lo fa con i denti di leone. Mi raccomando, non bere neanche una goccia di quell'abominio. Eccoti del latte. Come hai detto che ti chiami? Faith. Beh, che nome è? Non lo tollero. Non ne hai un altro? No, signore. Non mi piace proprio quel nome. Non ha brio. E poi mi fa pensare a mia zia Ginny. Ha chiamato le sue 3 ragazze Faith, Hope e Charity. Fede, speranza e carità. Ah, Faith non credeva in niente. Hope era una pessimista fin dalla nascita e Charity era una tirchia tale. Avrebbero dovuto chiamarti Rose, come le rose rosse. Quando ti arrabbi la faccia ti diventa dello stesso colore. E sei riuscita a farmi promettere di andare in chiesa solo una volta al mese, però, ricordatelo, solo una volta al mese. Posso rimangiarmi la parola su questo, ragazzina? Quando andavo in chiesa pagavo $100 alla parrocchia. Se gliene pago 200, mi dai il permesso di non andarci? E dai. No, no, signore, disse Faith con un sorriso impertinente. Voglio anche che venga in chiesa. Beh, un patto è un patto. In fondo sono soltanto 12 volte l'anno. Penso di potercela fare. Che scandalo solleverò la prima domenica. E così la vecchia Susan Baker dice che andrò all'inferno, eh? Secondo te ci andrò davvero? Su, dimmi. Beh, adesso spero di no, signore, balbettò Faith confusa. E perché speri di no? Avanti, perché mai? Dammi una ragione, ragazzina, una sola buona ragione. Perché deve essere un posto molto spiacevole, signore. Spiacevole? Beh, dipende dai gusti, ragazzina. Io mi stuferei in fretta degli angeli. Te la immagini la vecchia Susan con l'aureola? Faith provò a immaginarsela e ne fu così divertita che scoppiò a ridere. Norma le lanciò uno sguardo di approvazione. Vedi quant'è divertente? Oh, mi piaci, sei forte. Tornando alla faccenda della chiesa, tuo padre è bravo a predicare? Bravissimo, disse Faith, leale. Ah sì, eh? Beh, vedremo. Terrò le orecchie ben aperte. Meglio che faccia attenzione a quel che dice davanti a me. Lo prenderò in castagna, gli metterò i bastoni tra le ruote e scoverò ogni contraddizione nei suoi ragionamenti. Ah, penso proprio che alla fine questa storia della chiesa sarà divertente. Parla mai dell'inferno? No, non credo. Peccato, mi piacciono i sermoni su questo argomento. Digli che se vuole mettermi di buon umore, una volta ogni 6 mesi deve fare un bel sermone di quelli energici sull'inferno, e più fuoco ci mette, meglio è. Mi piacciono i sermoni fumantini. E pensa quanto saranno contente tutte le zitelle, che non faranno che guardare il vecchio Norman Douglas pensando: questo è per te, vecchio libertino, ecco cosa ti aspetta. Sono disposto a pagare tuo padre $10 extra per ogni sermone sull'inferno. Oh, ecco Wilson con la marmellata. Ti piace, eh? Non è certo sbobba questa. Assaggia. Faith mandò giù ubbidiente il cucchiaione che Norman le porgeva. Per fortuna la marmellata era buona. La migliore marmellata di prugne del mondo, disse Norman, riempiendone un piattino e mettendolo davanti a Faith. Sono contento che ti piaccia. Ti darò un paio di barattoli da portare a casa. Io non sono cattivo. Non lo sono mai stato. Non è su questo che mi frega il diavolo. E non è colpa mia se Esther non ha mai avuto un cappello nuovo in 10 anni. Era lei che risparmiava sui cappelli per poter mandare i soldi a quei poveretti in Cina. Io non ho mai dato un centesimo per le missioni in vita mia e non lo farò mai. Non provare a convincermi, eh? $100 l'anno alla parrocchia e in chiesa una volta al mese, va bene, ma non intendo contribuire a rovinare dei bravi pagani facendone pessimi cristiani. Su, ragazzina, quelli non si troverebbero bene né in paradiso né all'inferno. Allora, Wilson, ti è tornato il sorriso oppure no? Voi donne siete le migliori a tenere il broncio. Io non ho mai tenuto il broncio in vita mia. Esplodo, faccio i fuochi d'artificio e poi puff, la lite è finita, spunta di nuovo il sole e divento un agnellino. Norman insisté per riaccompagnare Faith a casa dopo cena e riempì il calesse di mele, cavoli, patate, zucche e barattoli di marmellata. Nel mio fienile è un bel gattino. Se vuoi ti do anche quello, basta che tu lo dica, le propose. No, grazie, disse Faith decisa. Non mi piacciono i gatti. E poi ho già un gallo. Ma sentila, un gallo non puoi mica coccolarlo come un gattino. Non si è mai sentito di un gallo da compagnia. Prenditi il piccolo Tom, vorrei trovargli una casa. No, il gatto di zia Marta ucciderebbe qualsiasi gattino estraneo. A quel punto Norman rinunciò con un po' di riluttanza. Il suo cavallo selvaggio di 2 anni regalò a Faith un eccitante viaggio di ritorno e quando la lasciò davanti alla porta della cucina della canonica, dopo aver depositato il carico nella veranda sul retro, ripartì gridando: «Una volta al mese, eh? Solo una volta al mese, ricordatelo!» Faith andò a dormire un po' stordita e senza fiato, come se fosse appena sfuggita alle grinfie di un tornado, ma era anche felice e grata. Ora non temeva più di dover lasciare Glenn, il cimitero e la valle dell'arcobaleno. Tuttavia si addormentò ancora lievemente turbata per essere stata chiamata ragazza dei maiali da Dan Reese e timorosa che lui avrebbe continuato a usare quell'epiteto così azzeccato ogni volta che ne avesse avuto l'occasione.